Forza Azzurri e grazie a tutti. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Oggi ore 15, quindi tra 51 minuti, si ricomincia Russia-Slovacchia dopo l'ennesima notte di scontri e violenze, poi avremo modo di parlarne. Poi Romania-Svizzera, questa sera Francia-Albania. Si parte per la seconda giornata dell'Europeo, si parte con il Portogallo che ieri sera è andato a sbattere sul muro islandese. Le abbiamo viste tutte, eh? 800 24 00 24 oppure via SMS e WhatsApp 349 238 6666. Aspetto il vostro podio ragionato su quello che avete visto nei primi 90 minuti di tutti i gironi, 12 partite. Chi vi è piaciuto di più? Chi vi ha deluso? Chi secondo voi lo vince questo Europeo, eh? Per quello che avete visto, chi invece deve uscire dal podio dei favoriti? 800 24 00 24, qualche indicazione c'è, eh? Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Bene, qualche indicazione c'è o no? Sì. Sì, provvisoria, perché è solo la prima partita e quindi bisogna, a maggior ragione perché siamo andati bene, bisogna stare con i piedi per terra e pensare che tutto sia molto ancora all'inizio, e lo è. Sicuramente per ora questi europei sono gli europei di Julian, questo mi dispiace dirlo, sono gli europei di un paese in una confusione, in una difficoltà enorme, di un continente in una difficoltà enorme, perché poi insomma ci sono le possibilità, c'è la possibilità del Brexit in Inghilterra con tutto il carico, diciamo, di inquietudine che può portare a una certa idea di Europa, e poi c'è quello che è successo ieri a Parigi, che comunque è una protesta per sulla legge del lavoro che ha avuto ancora una volta dei contorni violenti, quindi c'è un livello di conflittualità enorme e in mezzo c'è l'europeo, c'è ovviamente la minaccia jihadista con quello che è successo l'altro ieri, no. Purtroppo per ora è tutto molto schiacciato, questo. è tutto molto compresso in quello che sta intorno alla manifestazione sportiva. Ripeto, dopo le 14:30 andremo direttamente in Francia con qualcuno che da qualche giorno analizza in maniera molto attenta il fenomeno dell'uliganismo russo più che inglese. Cercheremo di capire anche che cosa c'è dietro realmente alla squalifica con condizionale che ieri la UEFA ha dato alla Federazione Russa, che però da oggi potrebbe essere esclusa o forse no, cerchiamo poi di capire, dopo le 14:30. In campo invece mi sembra, Pia, non abbiamo visto nulla di trascendentale. Poi ti do il mio podio e ti chiedo il tuo. Però in campo abbiamo visto le grandi che, a parte il Portogallo e l'Inghilterra, hanno vinto. E questo è già un dato, perché comunque insomma delle insidie c'erano e vincere non è mai banale. Poi c'è chi l'ha fatto in maniera più sorprendente, come noi, che non siamo veramente una grande equipe tradizionale, ma siamo un outsider, e abbiamo battuto oltretutto una delle squadre che erano e che sono comunque nel gruppo delle favorite. E poi ci sono state altre vittorie, diciamo non brillantissime, come quella della Francia, come quella della stessa Spagna, più faticose di quello che si poteva immaginare. Però, sì, c'è complessivamente un grande equilibrio fin qui, poi diamo anche un grande equilibrio, diamo anche diciamo qualche che non c'è numero. nessuna grande che abbia veramente steccato, ecco, forse il Portogallo ieri, però insomma pare che fino a questo momento nell'equilibrio le squadre principali se la siano cavata bene. Sì, stiano partendo. Il mio podio, aspetto il vostro, è 800 24 00 24. Io vado un po' in controtendenza. La squadra che mi è piaciuta di più in questi 90 minuti è stata la Germania, che è vero che ha sofferto contro l'Ucraina, ha rischiato, è stata salvata da Neuer, da Boateng, però Pierre, i tedeschi sono così, che cosa ci aspettiamo? Loro sono un diesel e sono partiti come tutte le altre volte. Il problema è che tutte le altre volte arrivano in fondo, o la vincono, o vanno in finale, in semifinale. La Germania è quella. Forse il primo posto lo do alla Croazia, poi ci metto noi e la Germania, però ecco, le tre sono queste, secondo me, le tre squadre che mi hanno colpito di più. Il che poi non vuol dire che arrivino fino alla fine. La Germania di queste delle tre è quella che ha sicuramente più possibilità di arrivare alla fine, questo non ci sono dubbi, perché appunto è strutturata e abituata a fare cose di un certo tipo. Noi siamo veramente un outsider, la Croazia pure, quindi delle tre sicuramente la Germania è quella che fa, anche solo probabilisticamente, se non ha più possibilità di arrivare fino in fondo. E poi ci sono altre grandi che hanno brillato meno ma che hanno vinto comunque. Il mio podio invece è la Germania, che a maggior ragione ancora più favorita dopo aver visto questi 90 minuti. Poi ci siamo noi che siamo stati i migliori, ma ci andremo a schiantare, e lo sai Pier, io ne parlo da venerdì, in un tabellone impossibile. Ed è un peccato, sai, hai visto che oggi già cominciano a scriverlo anche i giornali, ma ci conviene arrivare prima. Amici, la frittata è fatta, cioè, come facciamo ad arrivare secondi? Diceva Cruciani, pareggiamo con la Svezia e pareggiamo con l'Irlanda, ma è complicato arrivare secondi. La terza secondo me è la Spagna. Io non l'ho vista male, e proprio per quel ragionamento lì andrà invece a infilarsi nella parte debole del tabellone. Io credo ce la vedremo a Parigi e dintorni. 800 24 00 24, aspettiamo il vostro podio, o poi magari diamo anche il podio di quelli che rosicano, eh? Io due nomi li ho già. Uno è Cristiano Ronaldo, dopo ieri sera ha detto gli islandesi festeggiavano come se avessero vinto la Coppa, hanno una mentalità piccola così, come se Portogallo, Pier, avesse vinto chissà che cosa nella sua storia. Ma fra l'altro se l'Islanda non festeggia ieri, ma quando deve festeggiare? Ecco, cioè, appunto. La prima storica qualificazione, fanno la prima partita contro il Portogallo e pareggiano, io farei festa nazionale, per cosa ho fatto io farei una settimana di festa nazionale, sembra il minimo. L'altro grande rosicone è l'allenatore del Belgio, ha ragione, sì. Lo scrive Christian, 348-239-238-6666, io inizierei la trasmissione con un minuto di risate dopo aver letto l'intervista di Wilmots, che dall'altra sera sta rosicando, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. L'ingresso di Martial ed esce Pogba. Giusto, condivido. Sono usciti Griezmann e Pogba, forse i due più attesi della Francia. Questa sera secondo me non era in grandissima forma, ha fatto una grandissima giocata al primo tempo, però poco ritmo, poca velocità di esecuzione. Musica. Sinistra, prova Morata che vede la porta, Morata, pallone sul fondo, passa vicino alla mano del portiere Cech. Da tutti i limiti. Darmian sbaglia, attenzione al contropiede, offriamo il contropiede di un 3 contro 1, attenzione, prova a partire De Bruyne, cambia tutto per Lukaku con Buffon che esce, Lukaku sbaglia. Muoviti, e allora muoviti, oh yeah. Ibra, grande girata, palla di poco fuori. Il lancio per Ronaldo, posizione regolare, liscia Ronaldo, clamorosamente a tu per tu, col gol nel quarto europeo consecutivo. Muoviti. E allora muoviti. Saluto Paolo Condò, ciao Paolo. No, Carlo, ciao. No, non sono Carlo, no, Carlo Giovanni, torna domani. Giovanni, Carlo torna domani. Ciao. No, sai, noi col fatto che siamo sempre insieme, ormai Giovanni è un po' Carlo, Carlo un po' Giovanni, siamo tutti un po' Pier. Insomma, è bella questa cosa. Come va? Dove sei? Geolocalizzati, dove sei? Come sempre Parigi, e mi sto avviando verso la barca, verso lo Sky Bateau. Roba da mal di mare, roba da mal di mare per chi non apprezza il genere. Sì, devo dire che ieri Tafferugli erano lontani o vicini? Sì, erano lontani, erano dall'altra parte della Senna, ma abbastanza in profondità. Hanno evitato di farli arrivare troppo vicini alla fan zone, ovviamente. Anche se evidentemente si tratta semplicemente di spostare qua e là il problema, e ripeto, dopo le 14.30 avremo modo di approfondirlo. C'è anche il podio di quelli che hanno deluso. Ronaldo ieri ci è salito, credo, con tutti e due i piedi. Mi dai, Paolo, invece il tuo podio di quelli che dopo 90 minuti secondo te hanno tutto per arrivare fino a Parigi? Io l'ho detto, Germania, Italia, Spagna, questi miei tre gradini, Pier. Italia, Croazia, Italia e Germania, mischiali come vuoi, ma questi sono i tre nomi, i tuoi? Ma dopo la prima giornata io direi Italia e Croazia sicuramente sono state le squadre migliori. Sì, la Germania è ovviamente sempre molto solida, queste tre, Italia, Croazia, ma dopo la prima giornata, poi vediamo cosa succede dalla seconda in poi, ovviamente. Sì, vediamo a partire da stasera. Io ad esempio sono molto curioso di capire la Francia, perché la Francia vista al debutto è una squadra molto caricata della pressione e non necessariamente con la qualità per uscirne. È vero, però probabilmente la prima partita, che oltretutto si è conclusa in maniera felice, anche un po' fortunata, ma felice, potrebbe aver, come dire, stappato la squadra. E, tra l'altro, adesso vediamo se è vera questa cosa che Pogba rimane fuori, che Pogba e Griezmann rimangono fuori nella seconda partita, che sarebbe abbastanza clamorosa, però attenzione, è già successo al Mondiale del 2014. Pogba venne lasciato in panchina nella seconda partita e poi che loro vinsero tra l'altro 5-2 contro la Svizzera, quindi una partita travolgente, molto buona, ma rientrò regolarmente titolare dalla terza in poi, andò fino ai quarti di finale, che significa che è quello che gli spagnoli chiamano toque de atención, cioè una specie di cartellino giallo: attenzione, guarda che devi essere anche tu, che sei il più forte di tutti noi, devi essere al 100% per giocare. Anche se a me, scusate, viene in mente che anche Allegri quest'inverno qualche tirata d'orecchia a Pogba l'ha dovuta fare. Beh, non era partito bene quest'anno, ma la pressione... Anche a livello comportamentale. La famosa questione del numero 10, la maglia, il pennarello, eccetera. Sì, ma insomma, Pogba, ragazzi, è giovane e fortissimo. E quindi questo è il combinato disposto, come dicevano i politici degli anni Ottanta, di queste due cose fa sì che sia chiaramente un soggetto anche fragile in certi momenti, da maneggiare con cura, perché sicuramente il rischio di montarsi la testa, se fossi lui io ce l'avrei. È ovvio che è un talento talmente straripante in un corpo, in una mente ancora così giovane, può creare in qualche circostanza un cortocircuito. Però io sono dell'idea che Pogba sarà fra i protagonisti di questo europeo, e penso anche, purtroppo per il nostro amico Gianni De Biasi, che stasera la Francia giocherà con una serenità diversa rispetto al primo match, perché appunto è andata nel migliore dei modi, cioè ha vinto una partita che poteva anche non vincere, e questa cosa dà una grande iniezione, secondo me, di fiducia, di morale, e consente comunque di affrontare la partita di stasera con un'ansia da prestazione nettamente inferiore. Paolo, su Pogba e i suoi limiti, forse caratteriali, se esistono, o se invece... Il problema è che l'asticella è alta, ma è alta perché ha 23 anni, da potenziale pallone d'oro, giochi in casa un europeo, l'asticella è Zidane e Platini, ed è così. Allora, intanto, per quanto riguarda gli allenatori, fanno benissimo sempre, non soltanto in questo caso, a pretendere il rispetto delle regole. E quindi va bene se Allegri in inverno e Deschamps adesso decidono di lasciarlo fuori per segnalargli che alcune cose non vanno bene, però ricordiamo sempre che si parla di un ritardo di un paio di minuti per presentarsi in mensa, in sala ristorante, e il fatto di presentarsi in ciabatte anziché in scarpe. Cioè, nel tempo abbiamo assistito a ben altre manifestazioni di intolleranza delle regole da parte di tanti giocatori, inutile ricordarli quali, e quindi siamo qui veramente nell'ambito dei peccati veniali. Detto questo, io trovo che dal punto di vista tecnico Pogba abbia ancora dei momenti barocchi, abbia ancora dei momenti nei quali si piace talmente tanto nel palleggio, nelle giravolte, così, che perde il tempo di gioco necessario per lanciarsi verso la porta o per darla a un compagno prima che questi finisca in fuorigioco. E sono dei peccati che naturalmente nel corso degli anni si stanno riducendo sempre di più. Penso che però qui siamo nel mondo degli adulti, questo è un europeo, non è che poi una palla può decidere il fatto che tu ti qualifichi o non ti qualifichi, vinci o arrivi secondo, ecco. E quindi qui veramente ogni tipo di barocchismo deve essere lasciato da parte. Sì, deve essere assolutamente cancellato. Vi leggo alcuni messaggi che arrivano. 349-238-6666. Vi abbiamo chiesto il vostro podio dopo aver visto i primi 90 minuti. C'è chi scrive: Francia, Germania, Italia e Spagna saranno le semifinaliste, e non è possibile, perché poi c'è la questione del tabellone. Certo. Francia, certo. Italia e Germania, così stando insieme in tre in semifinale, non ci possono arrivare. Ne arrivano due. C'è chi ci chiede di spiegare la questione del tabellone. Se noi vinciamo il girone, giochiamo con la seconda di Spagna-Croazia, quel girone lì, e poi siamo dalla parte della Germania di un'eventuale semifinale con la Francia. Se noi arrivassimo secondi, si aprirebbero invece prospettive diverse, visto anche il Portogallo di ieri. Poi c'è chi dice che l'Islanda è il top di questo europeo. Poi c'è ancora chi mette invece Belgio, Germania, Italia, Germania, Italia e Francia. Insomma, i nomi quelli sono. A proposito del Portogallo, rischieremmo arrivando secondi, per modo di dire. Poi rischieremmo l'Ungheria. L'Ungheria. cioè, ma io lo dico da io lo dico da settimana scorsa, ragazzi, col Belgio non conveniva vincere, anche se capisco l'impatto, c'hai ragione, che dobbiamo fare? Abbiamo vinto, ma il discorso è giustissimo, razionale, e sappiamo benissimo che per esempio dall'impresa del 2006 l'ha riconosciuto lo stesso Lippi, l'hanno riconosciuto gli stessi protagonisti, ci siamo infilati in un pezzo di tabellone un pochino più agevole, no? Quarto di finale contro l'Ucraina, quindi è chiaro che questa è una componente che sicuramente è importante e può essere importante, fermo restando che poi se non batti Germania e Francia in semifinale finale non vinci il mondiale, quindi vuol dire che evidentemente non puoi pensare di vincere un mondiale o un europeo senza battere grandi squadre. Sono d'accordo con te, è chiaro che adesso la situazione da questo punto di vista è abbastanza complicata, nel senso che noi stiamo andando abbastanza dritti verso il primo posto nel girone. Sono bei problemi, sono bei problemi. Prima di salutarti, Paolo, tra Ibrahimovic e Ronaldo, due dei flop di questi primi 90 minuti, chi merita il voto minore? Il voto minore? Sì. Ma non lo so, hanno deluso entrambi. Ti dirò che leggendo il passato, Ronaldo altre volte ha deluso nella prima partita e poi è salito anche molto di rendimento. Penso per esempio 4 anni fa nell'Europeo di Polonia-Ucraina, quando soltanto ai rigori il Portogallo, da lui guidato, uscì dalla Spagna in semifinale. Ibrahimovic, ma questo anche per quale motivo? Perché ha dei compagni di squadra di valore, Ronaldo. Ibrahimovic lo vedo un po', come dire, depresso, come spesso succede nella nazionale svedese, lo vedo depresso dalla difficoltà, dall'inutilità dei suoi sforzi. Difatti lui fa delle grandi partite in nazionale quando, per esempio, negli spareggi contro la Danimarca, perché è una squadra a livello dei suoi compagni e quindi lui vede la possibilità di vincere. Certo, con l'Irlanda potevano vincere, con l'Irlanda non sono certo dei mostri, però Ibra lo vedo abbastanza depresso. Sì. Mentre invece Ronaldo, Ibra. Altre volte l'ho visto resuscitare. Sono due giocatori che non hanno finito proprio al top la stagione. Ronaldo ha avuto qualche problema fisico che l'ha condizionato, ha saltato, ricorderete, il Manchester City dell'andata, ha giocato al ritorno, ma non era al meglio, e non era al meglio secondo me neanche in finale, quantomeno non ha fatto una partita. No, certo che no. Su Ibra io sono parlato di due giocatori che forse amo di più in assoluto, che mi piacciono anche proprio come personaggi, anche più di Messi, anche se Messi probabilmente è superiore, ma non ci impieghiamo in questo discorso. Quindi veramente stiamo parlando di due che amo da pazzi. Su Ibra ci potrebbe anche essere un discorso di età, perché insomma ragazzi non è più un ragazzino, il finale della stagione non è stato forse così tanta all'altezza, il campionato francese lo sappiamo è un campionato che è un campionato poco allenante, per usare una citazione. Poi per carità c'è stato il gol a Stamford Bridge con Chelsea, sì. Però insomma è un watch out, no? È un campanellino che sono curioso di vedere che europeo farà. Lo aspettiamo venerdì contro di noi, sperando che non ripeta quel gesto che nel 2004 poi ci costò il biscottone la terza partita. Grazie Paolo. Ciao, buona giornata. Grazie Paolo Condò, buon Sky Bateau. E tu Pierre invece resta lì. 800 24 00 24. C'è chi dice che il Belgio si è fatto i conti, che era meglio giocare male, perdere contro di noi per arrivare secondo. Io, queste sono esagerazioni, però noi ci siamo infilati un po' in un problema. Torniamo dopo la borsa. Tra poco seguiremo tutto, prima però spot per noi. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Si ricomincia. Tutti convocati. Buonasera Conte, buonasera, complimenti per ieri sera. È agghiacciante il sangue che perdo ogni volta che facciamo un gol. Una testata ieri sera. Ho preso 3 punti nel girone, sì. 4 punti sul naso, vergogna, io ho paura. Perché ha paura? È stato un incidente. Ha appena abbiamo fatto il gol nella mia panchina mi hanno inclinato il setto navale nasale e agghiacciate. Io ho paura. Addirittura. Nel secondo tempo ho tifato il Belgio. No. No. E ho ancora un dubbio atletico. Amletico. O perdo la faccia perdendo le partite, o perdo proprio la faccia. E quindi? Io al Chelsea. Ci arrivo senza faccia comunque. È agghiacciante quello che perdo. Alla prossima partita mi metto un casco tecnico tattico integrale. Addirittura. Sono antipatico perché c'ho il naso. Chapeau. Meraviglioso, Pier, meraviglioso. 800 24 00 24. Oh Pier, guarda che la questione del tabellone appassiona, eh. C'è chi dice siamo solo noi italiani che stiamo qui a fare tutti questi calcoli sul conveniva perdere. Questo è Angelo da Cuneo, 349-238-6666. Ma ci sono anche un paio che scrivono: intanto che il Belgio si accontentava volentieri del pari, come abbiamo fatto a non accorgercene? E l'altro: ma uno stratega come Conte non poteva progettare di arrivare secondo in un girone con Svezia e Irlanda? Ma però scusate, mi sembra veramente che siamo alla frutta. Cioè, innanzitutto i calcoli, al di là del fatto che mi piacciono poco come mentalità, ma se uno li deve farli può fare l'ultima partita, non è che li fa la prima. Sì, perché non ci diciamo che siamo solo noi a farli, perché se no, insomma, abbiamo scoperto in un passato recente, nemmeno tanto, che anche gli altri si fanno tutti i loro calcoli. Certo, però io credo che salta di tutto. Non dobbiamo rigirare la frittata. Cioè, l'altro giorno è successa una cosa bellissima dall'Italia, non è successa una cosa brutta, è successa una cosa bellissima, bellissima come autostima, bellissima come classifica. Quindi godiamoci questa roba qui. Poi è chiaro che all'ultima giornata qualche sulle ammonizioni, anche se io lo dico agli amici, non è così semplice con la Svezia farsi ammonire Bonucci, Chiellini per saltare la partita con l'Irlanda, perché la UEFA da un paio di anni ha un regolamento un po' più cattivo con chi fa il furbetto. 800 24 00 24. Davis da Milano, no, si rischia una squalifica di due giornate. Davis, buongiorno. Eccoci. Ragazzi, come va? Bene, come va? Prego. Molto bene. Allora, io volevo dirvi il mio podio. Sì. Alla luce dei primi 90 minuti del primo turno, che è Croazia, Italia e io aspetto la Francia. Perché Croazia, secondo me, Italia e Francia. Sì, perché secondo me la Francia ha ancora tanto da dare, difficoltà della prima partita in casa, mille pressioni e gente tipo Pogba e lo stesso Payet alla fine verranno fuori. Mm. Sì, c'è anche chi, Pier, ci accusa di aver dimenticato l'Inghilterra. No, ma l'Inghilterra non l'abbiamo dimenticata. Io ribadisco che se tu mi chiedi le favorite, io ti dico sempre quelle che ti dicevo prima all'inizio, cioè Francia, Germania e Spagna. L'Inghilterra non ce la siamo dimenticata, però l'Inghilterra è per ora la solita cosa, cioè ci sono dei segnali molto positivi, molto incoraggianti, però alla fine beccano il pareggio all'ultimo minuto. Cioè, non è un dettaglio quello, E lo beccano su una situazione abbastanza statica, dove la difesa ha veramente dormito. Questo col presidente di Berezuschi. Poi, conoscendo per un po' di esperienza, avendola seguita per un po' di anni, appunto la stampa inglese, bisogna capire che questo pareggio, che tipo di reazione, di pressione possa creare. Se avrà degli effetti collaterali. Sicuramente non hanno fatto il processo che fecero a Capello nel 2010, però comunque insomma non aiuta. Aiuta la nazione inglese, mi ricorda un po' l'Inter di fino a 10 anni fa, prima che passasse, mi ricordo la frase che bastava qualunque problema per farlo diventare un Pacchetti dramma. Mi ricordo una volta disse una cosa per me molto giusta, cioè che l'Inter era come un tappo di champagne, finché non stappavi, finché non toglievi tutta questa pressione, era difficilissimo per i giocatori scendere in campo. Poi chiaramente ha cominciato a vincere, le cose sono cambiate, salvo poi tornare in una... L'Inghilterra ha sulle spalle 50 anni però, senza trofei. 50 anni, che non sono due giorni. Aspetta, perché c'è... Prego. Vai. Aspetta, vai. L'Inghilterra è la squadra che ha più pressione addosso in assoluto, perché è una vita che non vince, perché l'Inghilterra, fra l'altro, la nazionale, è una cosa serissima, molto più seria rispetto agli altri paesi. Noi ci ricordiamo della nazionale essenzialmente in occasione di europei e mondiali. In Inghilterra, l'Inghilterra è un paese che vive per la nazionale molto di più, quindi è ulteriore pressione. Vito dalla provincia di Rimini, Vito, dai. Salve, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Io più che un Antonio Conte stratega, per chi lo conosce, io credo che Antonio Conte è un guerriero, quindi le vuole vincere tutte le battaglie, secondo quello che penso. E quindi potrei capire la terza partita, gli basta un pareggio, quindi in campo si va con più tranquillità, ma le prime due partite non posso credere ad Antonio Conte. Sì, sì, ma questo l'abbiamo abbastanza capito, Vito, quindi... hai ragione, però è anche giusto farli ad alta voce questi calcoli, perché se escono due metà di tabellone così squilibrate come si sta prospettando, è un peccato fare la grande impresa e poi finire nella parte più difficile. Però sospendiamo soltanto, 800 24 00 24 349 238 6666. Torniamo a parlarne. Sospendiamo perché invece oggi è un mercoledì un po' particolare, sui profili dell'ordine pubblico, e quindi stiamo aspettando di capire che cosa succede. Questo è l'audio dell'incidente di ieri a Lille, protagonisti ancora i russi, gli inglesi, i gallesi. Saluto Gianni Santucci del Corriere della Sera. Ciao Gianni, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, cosa sta succedendo? Intanto siamo a un quarto d'ora abbondante da Russia-Slovacchia e mi pare non arrivino notizie particolari da Lille, e questa è già una buona notizia. Sì, sì, qui la mattinata è stata tranquillissima, ci sono state soltanto due risse ieri. Piccole, ma come sempre quando ci sono i tifosi russi di mezzo, molto violente. Una tardo pomeriggio e una nelle prime ore della notte. Sì, meno di quello che abbiamo visto a Marsiglia, ma comunque troppo anche alla luce. Ecco, anche alla luce, comunque troppo alla luce anche di quello che quella che è stata la presa di posizione dell'UEFA negli ultimi due giorni. In tanti si chiedono, ed è la domanda da cui partiamo, se quella minaccia di squalifica, o meglio quella squalifica congelata, è qualcosa che possa poi diventare davvero operativa, o se si tratta semplicemente del tentativo disperato di trovare qualcosa di deterrente. Secondo me, quindi, come arma di pressione sulla federazione, sicuramente è efficace. Altra questione è se è efficace sui tifosi, perché bisogna ricordare che qualsiasi provvedimento può prendere UEFA è relativo esclusivamente a ciò che accade dentro gli stadi. Quindi per assurdo che avvenisse una nuova Marsiglia, una nuova guerriglia in città, nulla avrebbe a che fare col provvedimento della UEFA. E quindi rischia di restare Pier tutto sulla carta. Eh sì, perché l'UEFA, ma questo lo sappiamo da tempo, e qualche volta ci siamo anche indignati, penso per esempio alla famosa questione della barcaccia, no? A Roma, chiaramente il limite territoriale del UEFA è un po' per logica e un po' forse anche per un atteggiamento pavido da parte della federazione europea, è lo stadio. Quindi se qualcosa avviene all'interno dello stadio, infatti l'episodio grave per UEFA è quello che è successo a fine partita in occasione di Inghilterra-Russia, con il tentativo di scavalcare il settore, la rissa che c'è stata allo stadio. Ma io vorrei chiedere a Gianni, che è il grande esperto della materia, secondo lui adesso è brutto dare delle responsabilità. Io penso che in questo momento veramente fare il poliziotto in Francia in questo mese sia uno dei lavori più difficili del mondo, perché dopo quello che è successo 48 ore fa di tragico con la coppia uccisa, col pericolo jihadista, con le tensioni sociali della legge del lavoro che abbiamo visto ieri, però gli chiedo se c'è qualcosa. A me sembra che a Marsiglia ci sia stata una sottovalutazione pazzesca del fenomeno, e credo che esista una differenza tra gli hooligan russi e gli hooligan inglesi. Gli hooligan inglesi sono essenzialmente hooligan da alcol, gli hooligan russi mi sembra che siano veramente un apparato paramilitare. Gianni? Sì, è assolutamente così. Diciamo, una certezza che si può ricavare dagli incidenti di Marsiglia è che il coordinamento tra polizie non ha funzionato. Io mi ricordo un po' d'anni fa ci fu una partita a Milano con il Partizan Belgrado, quindi con la Europa League. Era assolutamente a rischio, ma lì la questura di Milano fece circa due mesi di lavoro con la polizia serba, cui sostanzialmente il 20% dei tifosi più pericolosi, più cattivi, più violenti, che volevano venire a Milano a scatenare una striglia, non partirono neanche. Allora, se non si fa questo tipo di lavoro, quando poi questi gruppi così ben organizzati, sostanzialmente questi russi visti in opera, sono una sorta di gigantesco fight club che vuole lo scontro a mani nude in strada. Quindi non è, come diceva giustamente Pardo, non è un hooligan da birra e casino. Allora, se non la prevenzione non è efficace, quando poi arrivano ed entrano in piazza sono assolutamente ingestibili, perché qui in città non li vedi mai. Cioè, noi a Marsiglia in 3 giorni questi gruppi non li abbiamo mai visti, e non quando hanno deciso di arrivare. Certo. Quindi, noi abbiamo visto un corteo perfettamente organizzato, con una perfetta preparazione logistica, che è comparso sostanzialmente dal nulla, è entrato dentro la piazza degli Inglesi, ha fatto 30 feriti in 2 minuti e poi tutti sono completamente scomparsi. Quindi è un tipo di hooliganismo militare che senza prevenzione e collaborazione tra polizie internazionali non è contrattabile. Sì, ed è anche il motivo per cui la UEFA oggi se la prende con la Russia e forse dimentica l'Inghilterra, perché è l'altra domanda da cui ripartiamo dopo il traffico. Noi adesso abbiamo la pausa e in tanti si chiedono perché minacciare di esclusione la Russia, o meglio già squalificarla, poi squalifica congelata. E ad esempio sembra che gli hooligans inglesi siano diventati improvvisamente soltanto delle vittime. Anche questo è un tema. 800 24 00 24, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Oh, c'è chi chiede perché i costi dell'ordine pubblico debbano ricadere sui cittadini anche in occasione di grandi manifestazioni sportive. Se la scusa è lo stadio si chiude, Diego, vabbè, qui è sempre il solito discorso. Vale anche, anche in Italia, esatto, vale, cioè, anche per mille altre manifestazioni. Io capisco che, ed è assolutamente giusto, no? È assolutamente legittima questa considerazione. Tante volte, soprattutto se uno non è appassionato di calcio, questo tipo di ragionamento ci sta, no? Dici, ma io che c'entro? Però è la vita, è la comunità, è il motivo per il quale, se anche io non ho dei figli, pago volentieri delle tasse per delle cliniche pediatriche, oppure se non ho delle persone anziane in famiglia, pago per la prevenzione delle malattie degli anziani. Cioè, è questa roba qui, è esattamente come il servizio d'ordine delle grandi manifestazioni. Quindi la domanda è legittima, però fa parte, ed è giusto che sia così, fa parte della vita di tutti insieme. I giorni, esatto. Certo, dell'essere tutti parte di una realtà comune, è veramente la democrazia, poi fa discorso un po' altri, nella sua accezione più vera, più logica, cioè il fatto che comunque tu contribuisci indipendentemente da quello che è il tuo interesse o il tuo tornaconto personale. E poi c'è la domanda che fanno in tanti, cioè perché l'UEFA se la prenda solo coi russi? Gianni Santucci da Lilla. Per chi ha seguito gli scontri, io l'ho visto, me li sono seguiti tutti per 3 giorni, è oggettivo che gli inglesi sono stati le vittime della violenza. E sostanzialmente loro sono arrivati in Marsiglia, hanno occupato il vecchio porto bevendo fino al disfacimento. Il problema di ordine pubblico che hanno creato è stato, intanto qualcuno più ubriaco degli altri lanciava un po' di bottiglie contro la polizia li disperdeva perché erano troppi, ma come dire, non avevano nessuna volontà di scontro. Trovandosi lì in tantissimi, in centro, praticamente tutti completamente ubriachi, sono stati il bersaglio perfetto, tanto che i russi hanno fatto 2 blitz, uno venerdì e poi quello violentissimo di sabato, e gli stessi ragazzini delle bandiere di Marsiglia per 2 volte, sia la sera di venerdì sia il sabato dopo gli scontri con i russi, sono scesi in città dai vicoli, saranno stati anche lì 300-400 ragazzini, e hanno iniziato ad aggredire gli inglesi. Oggettivamente, come dire, non parliamo di un collegio di educande, sì. però sono stati vittima di aggressione, soprattutto perché loro, nella mentalità dell'ultras russo, portano il vessillo di essere i sostanzialmente i padri fondatori della violenza da stadio. E quindi qui la questione chiave qual è? Che tutti gli ultras dei gruppi russi sono arrivati in Francia con questo obiettivo qui, a dare addosso agli inglesi per dimostrare che e loro si sono inventati l'hooliganismo da stadio, oggi sono decaduti e gli hooligan più pericolosi, più violenti, che hanno lo scettro del potere in Europa sono loro. Questa è la stagione di campionato europeo parallelo. Sì, c'è anche chi dice scusate, il web è pieno di video da 10 anni, gli ultra russi e altri dell'est sono andati oltre, che è vero, abbiamo visto anche con alcune nazionali ex Jugoslavia. Posso raccontare, io ho fatto il ritorno. È il momento della consacrazione. Sì, quello sì, l'hanno inteso come momento della consacrazione di un fenomeno che andava avanti da 10-15 anni. Sì, assolutamente. Io ho fatto la telecronaca della partita di ritorno fra Partizana e Inter, e anche lì ci furono tafferù. Insomma, mi sembra che negli ultimi anni, facendo una generalizzazione, insomma, le tifoserie più pericolose, abbiamo visto i polacchi marciare all'Olimpico in occasione di quel derby. Le tifoserie più pericolose siano quelle dell'Est Europa. Gli inglesi hanno una logica abbastanza semplice. Infatti, devo dirti la verità, che ero molto perplesso nei giorni scorsi. No, perché, ripeto, non è che gli inglesi siano, quelli che abbiamo visto siano persone tutte straordinarie. Gira un video con gli inglesi che prendono in giro dei vendicanti della piazza di Lille che fa venire la nausea, però gli inglesi sono abbastanza semplici da capire, gli togli l'alcol e mediamente il fenomeno l'hai combattuto. Ma questo è anche il grande problema, Pier, che ci accompagnerà fino a metà luglio, che i russi non sappiamo come metterci in mano. Francia però. Non solo della Francia. Beh, ragazzi, però sì, una cosa, quello che è successo a Marsiglia è una roba, cioè a Marsiglia ci sono stati 3 giorni di guerra civile con la gente che continuava a vendere alcol, cioè mi sembra una roba che non, mi sembra che noi da 20 anni abbiamo superato questo tipo di cose. Poi un conto che ci possa essere il barista che fa il furbo e vende sotto banco. Ma comunque tu il principio lo devi stabilire, l'idea che lì si potesse vendere birra liberamente mi è sembrata una follia. Ci sono stati evidentemente degli errori. Ringrazio e saluto Gianni Santucci. Grazie Gianni. Grazie a voi, buona giornata. Che conviene continuare a leggere sul Corriere delle Sere in questi giorni, perché credo siano alcune delle analisi meglio scritte su quello che sta succedendo in Francia. Assolutamente. Pier, ti saluto, domani dopo le 14 ritrovi Carlo Genta. Io ringrazio e do appuntamento dopo le 15 invece a Eugenio da Milano e Alessandro da Roma, 800 24 00 24, perché andiamo avanti a parlarne, andiamo avanti a parlare anche del vostro podio. Dopo i primi 90 minuti stanno scendendo in campo Russia e Slovacchia, intanto a Lille in un impianto bellissimo che ha chiuso il tetto perché le condizioni meteo sono evidentemente difficili. Vi leggo qualche messaggio arrivato. Secondo me l'UEFA sta usando la mano leggera con gli hooligans inglesi per non acuire un sentimento anti-europeo in vista del referendum sulla Brexit. E poi un altro amico: è ovvio che punire solo la Russia è una cosa politica, perché sono in tanti che la pensano così, anche se la descrizione è quella che ci ha dato prima Gianni Santucci. Mi fermo, dopo il GR delle 15 torniamo. 800 24 00 24. E l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si va ai supplementari. La partita si allunga, in molti l'avevano previsto. Tutti convocati. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Vendi bene e incassa meglio. Assicom, marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Parliamo di Eugenia, di sua moglie, parliamo di sua moglie, perché mi dicono che è lei la persona che guida tutto quanto. Adesso è diventata tecnologica, col tablet lì capisce tutte le cose, legge tutte le notizie più di me. Su WhatsApp mi ha messo mia nipotina, che ne sa più di me, ma ha messo anche su LinkedIn, che non so neanche cos'è. Io che non capisco sono tutti quei comunità che fanno, uno riceve una comunità e io cancello tutte. Intanto io gioco a boccette con loro, a ping pong, cosa che non avevo mai visto. Io credo, se mi passi questo termine, deve essere sfatato un po' dei tabù. Non concepisco il fatto che il presidente non potesse andare a pranzare con loro. In certi momenti era così. I ragazzi hanno una confidenza col presidente e gli dicono: presidente, allora vogliamo il premio, vogliamo qui. Il premio si risponde. Sì. Giochiamo con la boccette, con mica tutti sono bravi, sì. però. È il più bravo. Ma sono tutti normali. È simpaticissimo Immobile, perché sì. Quando gioco con Immobile è bellissimo. Poi c'ho Riali da parte che si guarda, capito? È una bella coppia dal punto di vista. Sì. Perché poi noi non riusciamo. Uno non parla, l'altro parla, capito? Quanti canoni Rai ha pagato? 48. Continuativi? No, che uno dice ho fatto, poi è saltato 5 anni, no? Sempre continuativi. E la signora Eugenia ha conservato tutti. Come l'Enciclopedia Britannica. Sì. La signora Eugenia Tavecchio. È bella copia anche quella tra Conte, un po' isterico, sempre in tensione, e Tavecchio, che comunque ci ha portato all'Europeo con il top player degli allenatori. Ma ne parlavamo anche ieri con Demetrio Albertini, ci sarà tempo e modo per tirare la riga e fare il bilancio. 800 24 00 24, fra un istante andiamo a Montpellier dal nostro Dario Ricci. Eugenio da Milano. Eugenio, buongiorno a tutti. Eccoci. Dai. Allora, io per quello che ho visto nella prima parte, nei primi 90 minuti del torneo, dico Croazia-Italia la finale. Croazia-Italia la finale. Ecco, poi volevo dire una cosa sull'Inghilterra. Sì. Per me loro giocano per uscire dall'Europeo. L'Inghilterra gioca per uscire dall'Europeo, vista la Brexit. Eugenio, mi sembra un'interpretazione un po' ardita, però, dipende, però accettiamo tutto, Eugenio, però, accettiamo tutto. Tutti dicono che uscire dalla Brexit per l'Inghilterra cioè sarà un danno, una perdita, sì. Ma solo perché chi non ha i soldi. Sì. Se loro, quei giocatori in campo, siccome saranno tutti ben pagati, sono tutti miliardari. Loro giocherò per restare. Allora non giocano per uscire. Era una battuta. No, ma non giocano per uscire, Eugenio, ci mancherebbe. Dario Ricci, ciao. Ciao Giovanni, con la Montpellier, Casa Azzurri, Ritiro Azzurro, si sta svolgendo in questi istanti la conferenza stampa di Candreva e Florenzi, che abbiamo abbandonato. Senza troppi rimpianti, no? Lo chiedo a Leo Turrini, inviato del quotidiano di QS, di quotidiano sportivo. Beh, insomma, Leo, parole non indimenticabili, però c'è un tema che piacerebbe iniziare a sviluppare, Giovanni. Abbiamo visto che ai nostri, se gli dici che la squadra è poco tecnica, che inevitabilmente il favore del pronostico non era dalla nostra parte, insomma, cioè considerazioni che possiamo sottolineare anche banali dal punto di vista giornalistico, se la prendono davvero. Cioè, mi sembra che ci sia sempre un po' il gioco a andarsela a prendere coi giornalisti, per carità, si sta qua apposta, però insomma, tu come la vedi? No, ma io penso che noi giornalisti, anzi voi giornalisti, perché io sono un comico, siete la peggior categoria che ci sia in circolazione. Quindi bisogna comprendere gli stati d'animo dei giocatori. Adesso, al di là delle peggio battute, anche degli hooligans, Leo, peggio. Dai, voglio dire, adesso al di là delle battute, che se all'interno della squadra sta crescendo l'autostima, come dicono quelli che hanno studiato, è una bella cosa, ma a me non dà assolutamente fastidio. Adesso dobbiamo tutti però avere ben presente l'incubo costaricano, perché io e Dario Ricci c'eravamo 2 anni fa, oh, eravamo tutti contenti, eravamo tornati dall'Amazzonia, eravamo rientrati dal cuore di Manaus, avevamo battuto gli inglesi, dato che prima ho sentito che parlavate dell'Inghilterra, ci sentivamo già campioni del mondo, sognavamo il Maracanã, Rio. 8 giorni dopo eravamo sull'aereo per la Malpensa, quindi insomma stiamo tutti calmi, cauti, adesso è scattata in mezzo Leo, vi hanno cambiato anche il regolamento per evitare questi problemi, tu lo sai, si passa anche da terzi praticamente, sai che in Italia è aperto il dibattito sul fatto che invece la ricetta perfetta, l'ha detto ieri Cruciani, un punto con la Svezia e un punto con l'Irlanda, perché bisogna drammaticamente arrivare a secondi, prima o poi dovrete anche dirlo a Conte. Sì, ma voi in Italia siete dei pazzi, so che è in corso questo dibattito che ci dobbiamo scegliere l'avversario per gli ottavi per di finale. Per fortuna noi fuori usciti non raccogliamo. Ecco, noi esuli la pensiamo diversamente, forse perché, ripeto, siamo rimasti scottati dopo Manaus 2 anni fa. Io credo veramente che sia, ma no, non è assurdo, è molto italiano, cioè fino alle 21 di lunedì, calcio d'inizio col Belgio, eravamo tutti convinti che questa era una squadrina, la più scarsa nazionale di sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo vinto una partita, sottolineo una, e tutti lì a dire, ah, scegliamoci l'avversario per gli ottavi di finale. Ma prima passiamo il turno, che sono 2 mondiali che andiamo a casa in una settimana. Voglio dire, facciamo il punto che ci serve, perché con un punto dovremmo essere matematicamente oltre, diciamo, sì, così, almeno terzi. L'ostacolo, perfetto, e poi vediamo. Mettersi adesso a dire, ah, ma forse bisogna evitare la Spagna, bisogna evitare la Croazia, stiamo calmi, sì, ragazzi. Però evitare Spagna, Croazia, Germania e Francia non sarebbe male, ma ne riparleremo. Invece no, dobbiamo giocare contro i migliori, contro Giovanni, sì. Questa è una squadra che anzi la... Sì. Secondo me, tatticamente, fammi dire, prego, caro. Certo. Dagli amici che stanno in studio, ormai sono convinti che possiamo vincere l'Europeo. Allora, se vogliamo vincere l'Europeo, dobbiamo battere chiunque. No, non possiamo stare a dire, ma l'avversario, ci scegliamo. Bravo, l'avversario. Bravo. Che roba è? Se credete che questa squadra, la classe operaia, va in paradiso, possa veramente arrivare fino in fondo, dobbiamo batterle tutte. Vogliamo quindi, il pane, quindi, anche voi le rose. Quindi voi siete pronti a giurare che Conte non farà mai nemmeno un piccolo pensierino all'idea di dire magari conviene arrivare secondi? No, io penso una roba diversa, che se contro la Svezia facciamo il risultato che ci garantisce la qualificazione, allora sì, non in una logica di calcoli, ma per risparmiare energie, eccetera, la terza partita dovrebbe fare... E poi l'ha anche fatto capire prima ancora che giocassimo col Belgio, quando disse, ma 21 giocatori che ho qui, a parte i portieri di riserva, le 3 partite le giocano comunque tutti, no? Sì. Ecco, se noi dopo la Svezia siamo qualificati, secondo me contro gli irlandesi farà un ampio ricorso al turnover. Anche perché siamo la squadra che ha corso di più nella prima partita, dato che avrete già evidenziato più di 19 chilometri, quindi vuol dire che... precisione tattica, ecco, siamo precisione anche tattica vecchi, e fiato sono fondamentali, e siamo pure tra i più vecchi, e siamo anche i più vecchi, almeno nei primi 90 minuti siamo stati i più vecchi di tutti. C'è un altro tema che vi voglio girare ed è questo, ma sempre prendendolo dai giornali che scrivete voi inviati lì, c'è anche un pizzico di esagerazione intorno a Conte e al contismo, insomma oggi abbiamo letto di tutto, che le sedute video, il fatto che non possano bere la birra e la Coca-Cola, l'analisi del match sono qualcosa di rivoluzionario e quindi sono il simbolo che Conte e il contismo sono il grande condottiero che ci dovrà portare fino a Parigi, ma lo fanno anche tutti, fanno tutti. Sì, è vero, però fa anche l'allenatore del Carpi, del Leo, video. L'allenatore del Carpi è bravissimo, capisco se la citazione voleva essere una diminuzio. No. Voglio dire, Castori è un grande personaggio che avrebbe meritato di restare in Serie A, ma però adesso devo dirvi una roba per esperienza, scusate, perché Ricci è molto giovane, io invece ormai sono... Grazie, troppo buono maestro. Sono completamente rimba. Cioè, tutte le volte che ci sono questi tornei, ho sempre, dopo 2 o 3 giorni salta fuori, allora... Quanto costa l'albergo, dove sta la squadra, come sono le camere, divieto di uso dei cellulari, metodi rivoluzionari, allenamento con i droni. Ah, il drone è spuntato oggi, però c'è anche la sicurezza. C'è il drone. Allora io voglio dire a chi ci ascolta, guardate, alla fine sono tutte puttanate, perché poi stiamo parlando di calcio e quello che conta è quello che si fa in campo quando c'è l'avversario, hai capito? Però, i video, però Leo, meglio il video della partita che la PlayStation. Ma sono d'accordissimo, però sì, ma lo guardano, ripeto, tutti il video, lo guardano. Bravo, tutti il video. Questo volevo dire, che in realtà non è che ma come lo guardiamo noi, dai, l'allenatore dell'Islanda, secondo voi, non ha fatto vedere i filmati di Ronaldo, Portogallo, di Cristiano Ronaldo, cioè, ma queste cose, cioè, si fa sistematicamente una scoperta dell'acqua calda. Ma hai ragione, c'è un pizzico di esagerazione. Aspetta, io vi voglio far sentire questo, perché voglio chiedere a voi illuminati il parere. Noi oggi in redazione con Giorgio De Luca, Claudia Schiatone, Federico Binda siamo rimasti un po' così, aspetta, ve lo faccio sentire, perché si è molto enfatizzato anche che cosa ha fatto ieri sera la nazionale. Questo Gomorra, noi abbiamo vinto ieri sera. Ciao Jenna. Ciao Jenny. Ciao Jenny. O ti riferisci un matrimonio? Padre ti sta scassando tutte cose. C'è solo un altro modo per dire che sei per te. La leggenda. Moke, moke. Perché abbiamo scoperto che invece di osservare il Portogallo, che poteva essere l'avversario nel caso di piazzamento da secondi negli ottavi di finale, vedete come siamo avanti qui noi in Italia, ieri quella nazionale hanno guardato Gomorra. Dario, Leo, cosa possiamo dire? Rilassarsi. Purtroppo il mio Sky Go in albergo non me lo permetteva, non prende. E quindi non fatemi lo spoiler, non voglio sapere com'è finito. D'altronde poi voglio dire, se voi guardate certe facce di questa nazionale di brutti, sporchi e cattivi, no? Insigne immobile, sono bastardi per la gloria, per entrare così, nel cast di Gomorra 3. Sono perfetti, io lo ho anche però scritto. Il più cattivo di tutti è Bonucci, no? Anticipiamo pure che stai scrivendo un profilino niente Bonucci, male. Beckenbauer italiano, ha fatto questo lancio per Giaccherini. Ma sono cose, come disse Manlio Scopigno una volta ai mondiali del 70, voi non eravate ancora nati, giocava stopper titolare della nazionale azzurra un certo Comunardo Nicolai, il re degli autogol. Scopigno aveva allenato Nicolai nel Cagliari campione d'Italia, gli chiesero un giudizio su Italia-Svezia che inaugurò quel mondiale, lui disse: tutto avrei creduto in vita mia, ma non di vedere Comunardo Nicolai in diretta via satellite. Ecco, io tutto avrei creduto in vita mia tranne di vedere Bonucci che fa un lancio alla Rivera e Giaccherini che fa uno stop alla Messi e poi con un tocco alla Pupone Totti beffa Courtois. Sono cose veramente che riconciliano. Sono cose che capita poche volte di vedere, come il Cesena del 2011-2012, metà di quel Cesena. Oggi abbiamo visto la foto che si è trasferito in Francia per l'Europeo. Grazie a tutti e due, grazie a Dario Ricci e a Leo Turrini. Grazie a voi. Torniamo poi con Dario nel corso del pomeriggio e della serata a raccontarvi questa lunga vigilia di Italia-Svezia. 800-24-00-24, Alessandro da Roma, no, Francesco da Milano. Francesco. Sì, ciao. Ciao. Io volevo parlare un attimo degli hooligans, degli ultrarussi, sì, visto che ne conosco alcuni di quelli che sono adesso in Francia. Sì. E volevo dire che a loro, se squalificano la Russia, non cambia assolutamente nulla, perché loro hanno deciso di stare lì fino alla fine dell'Europeo, quindi che la Russia giochi o non giochi, loro vogliono creare incidenti, soprattutto contro gli inglesi, fino alla fine dell'Europeo. Sì, ma questo credo che è abbastanza evidente, così come è evidente che limitare la possibilità di squalifica soltanto a quello che succede dentro gli stadi, perché poi questa è la realtà ed è una burocrazia con la quale ci siamo scontrati anche in Italia nel recente passato. Basti pensare agli incidenti prima del derby di Torino un anno fa, fuori dallo stadio olimpico, di fatto impuniti quelli fuori, perché così dice il regolamento. È del tutto evidente che quella minaccia di squalifica è qualcosa che può fare impressione forse soltanto alla Federazione Russa, ma limitatamente, perché è comunque una federazione molto potente. C'è Paolo da Torino, gli chiedo un istante di pazienza. Volevo cambiare invece discorso e salutare Marco Belinazzo. Ciao Marco. Buon pomeriggio. pomeriggio, ciao Giovanni. Oh, oggi 15 giugno non è una data qualsiasi per chi sta seguendo le traiettorie delle trattative che riguardano i nostri club. Oggi sulla carta scadeva, Marco, la prima esclusiva della trattativa tra i cinesi e il Milan. Ovviamente le vicende di Berlusconi allungano i tempi, si sta trattando a oltranza, ci sono gli advisor. Facciamo un po' il punto su quale sia oggi lo stato della situazione. Ma credo che siamo in una fase molto complessa della trattativa, come testimonia il fatto che l'advisor Galatioto è arrivato nei giorni scorsi a Milano. L'idea è ovviamente quella di mettere giù una bozza il quanto più possibile definita di contratto, per poi sottoporla appena sarà possibile, appena sarà in condizione, insomma, al padrone rossonero. Diciamo, credo che sia questo il momento fondamentale, insomma. Sì, anche se poi i temi mi pare siano quelli sul tavolo già da un mese, cioè le garanzie sugli investimenti futuri, il ruolo di Berlusconi che non vuole uscire completamente dalla vita del Milan. Sì Giovanni, io direi che fondamentalmente le linee guida di questo accordo erano già state definite nel momento in cui è stata concessa l'esclusiva, tant'è che si faceva riferimento proprio nel comunicato della Fininvest a una bozza preliminare di intesa che riguardava appunto la cessione del 70% per i 500 milioni. Sono rimasti questi nodi, vale a dire la garanzia che Berlusconi pretende dai cinesi di un investimento costante nel club, che tra l'altro è la questione del 30% residuo, quindi come e quando poi Berlusconi e la Fininvest intenderebbero poi uscire definitivamente dal club, attualmente il ruolo di Silvio Berlusconi, che chiaramente vorrebbe, meglio dire, associare alla carica di presidente onorario anche dei poteri concreti, quali appunto... Sì, difficile anche pensare che vengano lasciati a un socio di minoranza dei poteri concreti. Abbiamo l'esperienza di Moratti e del suo 30% in questi 3 anni. Poi tra 22 giorni inizia la stagione del Milan, c'è il ritiro già programmato. C'è la sensazione di un ritardo che il Milan stia accumulando, che poi difficilmente sarà colmabile. Il problema fondamentalmente è questo, è il motivo per cui la cordata cinese voleva stringere il più possibile sui tempi, ma gli eventi hanno rallentato la trattativa, perché il problema che aver perso queste settimane e magari perdere altre settimane significa in qualche modo minare alla base quella che è la prossima stagione, quindi perdere un anno sul percorso di rilancio del club. Ma una nuova scadenza, quella che viene detta il 30 giugno, è credibile o i temi sono ancora complessi e lunghi? Guarda, sinceramente non credo che sia il caso adesso di fissare nuove scadenze o di guardare a nuove scadenze come se fossero appunto dei termini definitivo, perché tutto passa comunque dalla decisione di Silvio Berlusconi, e quindi tutto passa dal fatto che lui si rimette, sia in condizione, insomma, di esprimere appieno quella che è la sua volontà, nel bene o nel male, insomma. Sì, insomma, il tema è che non esiste un finale scritto. Prima di salutarti, cosa succede all'Inter dopo i grandi proclami, dopo lo show a Nanchino, gli annunci? Sappiamo che a fine mese ci sarà l'assemblea che deve ratificare il tutto. C'è un po' l'impressione che ci sia stato un po' un raffreddamento, o no, degli entusiasmi? Ma ci deve essere il passaggio formale, l'aumento di capitale, la nomina di nuovo consiglio di amministrazione, e questi sono passaggi burocratici che oggettivamente sono più freddi rispetto a quello che può essere invece una conferenza stampa di annuncio di una svolta epocale. C'è invece aperto, insomma, il discorso del settore finanziario, insomma, come arrivare a meno 30, l'Inter dovrebbe arrivare, ma poi c'è quello che la UEFA potrà concedere, quello che Suning spera di ottenere dalla UEFA in termini di maggiori spazi di manovra, insomma, lì sarà un'altra partita tutta da verificare. Ma è un ragionamento già su questa estate? Sì, infatti credo questo sia davvero poi il tema fondamentale, insomma. Grazie Marco. Grazie a voi. Questo dunque il punto su Milan e Inter, 26 minuti, Russia 0, Slovacchia 0, in questa prima partita di questo mercoledì all'Europeo. Paolo da Torino, Paolo. Sì, buongiorno. Volevo con riferimento agli Hooligans, volevo solo dire una cosa. Io per 16 anni ho venduto birra, sì. E a Torino quando arrivavano gli Hooligans era festa per tutti, voglio dire, i commercianti di birra. In un giorno facevamo i consumi di un mese. Allora in Francia uno degli sponsor della manifestazione, se non ricordo male, è un produttore di birra importante, sì. Ed è quello che ha la quota di mercato più alta in Francia. Guardate i filmati, vedete il cartone di birra di colore verde in giro dappertutto. Secondo voi è possibile proibire l'alcol con uno sponsor così forte? Questo è un altro grande allora tema, Paolo, dire, hai ragione. Però scusami, Gianni Santucci, Paolo, Gianni, ci ricordava che però il problema dei russi è diverso, non è un problema legato all'alcol. C'è anche quello, perché è evidente che ci sono delle responsabilità e anche un po' di ipocrisia adesso nell'UEFA che minaccia le sanzioni, minaccia l'esclusione, perché gli errori ci sono stati. Ma il problema dei russi, come stiamo cercando di spiegare, è qualcosa di diverso. Giuseppe dalla provincia di Ravenna. Sì, buongiorno. Rapido, grazie che siamo in chiusura. Dai. Per la convocazione. Io volevo parlare del tabellone, famoso, sì. Tabellone, primi, secondi, terzi. Secondo me l'Italia, per come la penso io, ha fatto un'ottima prestazione e deve dimenticare al più presto, prendendo naturalmente le cose positive di quella partita, e ripartire da zero e giocarsela con tutte. Perché non so se è stato un bene che l'Italia abbia fatto questa prestazione, perché molte volte poi arrivano delle prestazioni deludenti. Spero che vada avanti così e se la può giocare sicuramente con tutte le squadre. Ma è inutile c'è anche questa scuola di pensiero, cioè che tanto bisogna vincere contro tutti e quindi meglio prendere autostima e cominciare subito, poi vediamo venerdì. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Federico Binda in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani dopo il GR delle 14 con Pierluigi Pardo torna Carlo Genta. Ciao. Che spettacolo, da brividi.